man don't like the police men, no. So war in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it love there? Is it love there? Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it love there? A man pride shall bring him low, yeah. Oh yeah. Hannah shall uphold the humble in spirit. And you know it's true, yeah. Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Who is it love there? So what? waking, lying in bed. Look in the mirror, am I at home? Now I am hearing trucks in the street. Now I am drinking the coffee I bought from a man in the store in the village who recently quit and went far away. It's sunny and gray today. Think I'm where I wanna be. What is my place in history? Anyway, I'm doing what I think I ought to do. And if I'm wrong, I guess we're through. Anyway. Now I am walking from her house to my house. Now I am turning the key in the door. Now I am washing the dirt off of my face. Now I am taking the bus to my office. Now I am working in a room that is cool. There are no windows and it's very messy in here. And if I'm fighting for a cause, is it because I like to fight? And if I win the world's applause, is it because they think I'm right? Now work is over, I'm gonna go out. Now I am buying something to eat, something to wear, something to read. Now I am spending the money I earned when I was working a short time ago. That is how things work, this I have learned. Think I'm where I wanna be. What is my place in history? Anyway, I'm doing what I think I ought to do. And if I'm wrong, I guess we're through. Anyway. Really raining, I want a drink, but it's time to go home now. Take off my suit, open the mailbox, turn on the radio. Now I am calling my friend on the phone. How are you doing? I'm feeling fine, a little bit tired. So how are you? I had a strange dream. What are you doing? What should we do before we go to sleep? There is still time in the day to do something. We could go somewhere. We live in New York. We're nice young people, we're welcome everywhere. We're always happy and life is fulfilling. We try to stay healthy and keep up to date with events in the world. We like to know how the dollar is doing versus the yen. We know about fashion, but we wear what we like. We go to a health club, is it for vanity's sake? I don't think so. Sometimes it seems like there aren't enough hours in the day to do all the things that we like to do. And if I'm fighting for a cause, is it because I like to fight? And if I win the world's applause, is it because they think I'm right? Sometimes it seems very hard to accomplish the minimal duties of everyday life. Eating and sleeping and staying in touch with your feelings is sometimes all you can do. Even though we are young and ambitious, sometimes we feel like just staying in bed. In an apartment in New York City, even though we are young and attractive, we still have problems, we really do. Roaches for one thing, and it's very hard to keep up with our reading. We like to know what's going on in the world that surrounds us. Sometimes we worry, but that's not constructive. We want to know just who we are, but most of the time we forget to be conscious. We want to be good human beings, not so that people will say, aren't they nice, but so we can feel like we're doing okay with our lives. I think I'm where I wanna be. What is my place in history? Anyway, I'm doing what I think I oughta do. And if I'm wrong, I guess we're through. Anyway. E vai che c'è Toto! Way for us to stay. it's the same, it's the sight, it's the game, it's the why, it's the where and the when, and we're united. Oh, Good morning, Orono. You are awake. The weather today is dark. Bella cosa, cioè qua è crisi nazionale, negozi chiusi, gente impazzita, chi fa, chi dice, malati che sputano addosso alla gente, macchine incendiate, rivoluzione, tu che fai, ti fai, non so, fusilli al sugo, no, vabbè, no, ti adoro, va, ti adoro. Thank you. Give my money back to the record label. non mi vedrà. Che dirà mia madre, che non ho mai legato con i figli dei ricchi, con i bambini buoni, che non ho mai seguito loro dei suoi consigli, che le do dispiaceri, che ho la faccia sciupata e non mi vesto elegante, che cammino male e che cammino male. Pacchi blu, dicevi di forte, Andrea, tieniti forte, che adesso accelero un po' di più. Dicevi di forte, Andrea, tieniti forte. La mia guancia sinistra sulla sua schiena ruvida, dal cotone alle narici una polvere metallica. Io imparavo il profumo del ferro, io imparavo l'odore del ferro, io imparavo la durezza del ferro, imparavo. Ma sai perché noi siamo qui? Le loro facce pulite dietro i vetri, e per strada fischiare. Ma sai perché noi siamo qui? Disegneremo un carnevale nuovo sulla facciata dell'Unione Industriali. Noi due per strada faccia in su, sembra distante il terzo piano per le nostre braccia, ma ci sembra distante anche il tornio e i discorsi esistenziali fatti ai pezzi di metallo e il ciclo di lavorazione in sincronia col ciclo dei pensieri, in sincronia con questi muscoli. Ma sai perché noi siamo qui? Le loro facce pulite dietro i vetri, noi per strada a fischiare. Ma sai perché noi siamo qui? Trotteremo le uova sulla facciata dell'Unione Industriali. There'll be no work next year. Qualifications, what's the golden rule? And they're just pieces of paper. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. To pick and choose. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because I dress like this doesn't mean I'm a communist. The factories are closing. In the land of the free, there's only a future for the chosen few. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. You're on top of the scrap heap. At 16 you were top of your class. All they taught you at school was how to be a good worker. System has failed, you don't fail yourself. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. We'll be right back. where the moon glows in your head and the rain falls down on a ground that's cold and bare, dripping from the clouds, where I sing because I care till my lungs fall out. I'm asleep but well aware that the word is out. There's a love, there's a sense of direction in the matter that keeps us apart. There's a light coming out of the woodworks from a crack in the door to my heart. As the sound is taking forever, 'cause I can't take the heat. Thank you.

19 marzo 2020, mia madre compie 84 anni. Mia madre è nata in Germania, ad Amburgo per la precisione, appunto il 19 marzo del 1936. fin da quando sono bambino io mi ricordo mia madre cantare una canzone, Lili Marlene, nella versione quella più famosa di Marlene Dietrich. Da sempre io ricordo mia madre felice, col sorriso, cantare questa canzone. Mi ha sempre detto che le ricordava il momento, il periodo di quando era bambina. Mi ha sempre raccontato che erano tempi duri. La guerra è brutta, la guerra è triste, però ha sempre un bel ricordo, ha sempre avuto un bel ricordo della famiglia, dell'unione, il bombardamento di Amburgo, scappare, andare in collina, lo zio, il nonno, i fratelli, i gemelli che aveva. Mia madre adesso ha dei problemi di salute, ha una malattia, subito l'hanno chiamata demenza senile, poi l'hanno chiamata Alzheimer. Sparisce la memoria, quella più corta, non si ricorda cosa ha fatto ieri, non si ricorda cosa ha fatto mezz'ora fa, non si ricorda cosa le ho detto 5 minuti prima quando la vado a trovare. Ma la memoria lunga rimane, soprattutto se traumatica, soprattutto quando si è vissuto la guerra. Ho chiesto a mia madre di cantarmi ancora una volta quella canzone che ha sempre cantato col sorriso, sempre vicino a me quando ero bambino e poi crescendo nelle mie varie fasi, prima adolescenziali e poi da più grande, tanto da incuriosirmi e andare a fare un po' una ricerca su Marlene Dietrich, la vita che ha fatto, la fuga dal nazismo, il nazismo che ha preso questa canzone e l'ha fatta diventare una canzone per i soldati tedeschi, nazisti. Lei l'ha cantato in inglese per i soldati americani, perché era contro il nazismo. Ho chiesto a mia madre di cantarmela, non se la ricordava, non sapeva di cosa stavo parlando. Gliel'ho messa allo stereo e magicamente l'ha cantata tutta, dall'inizio alla fine, parole per parola. Poi ha guardato nel vuoto e ha detto: che tristezza, sembra di essere di nuovo in guerra oggi, di nuovo in guerra, ma io non sono più bambina, io sono una persona anziana, non so se sono pronta. Smoke on the wall. questa è davvero